Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Che cos'è, amore? Che c'è scritto? Piccole carte grandi per me, papà, dai tu. Caro papà, tu sei forte e coraggioso, paziente e generoso, alto, alto, mi sembra un gigante. Vorrei essere come te da grande. Papà, per la tua festa volevo dirti tante cose belle, ma la mia bocca è ancora troppo piccina e il cuore commosso questa mattina. Che ci posso fare? Lo so che non è bello, ma mi è presa così. Questa mattina mandava di suonare la marcia funebre per i padri. Sì, perché oggi è la festa del papà. Sono tanti anni che c'è questa squallidata della festa del papà, fatta di lavoretti a cui i ragazzini sono costretti a scuola ad impegnarsi per colpa di maestri con grande acume e grande spirito di imprenditoria creativa. Poi tornano a casa, fanno la cravattina di cartone, fanno il portatovagliolo fatto con le mollette da panni incollate. Chi porta più i tovaglioli a tavola? Boh, non ci sono più tovaglioli di stoffa, usano tutti tovaglioli di carta, ma continuano a fare portatovaglioli fatti con le mollette. E le poesiole, e poi c'è il cioccolatino. Il cioccolatino del papà deve avere il liquore e la ciliegina, perché il papà beve, quelli della mamma hanno la nocciolina. Questa è la differenza. E poi oggi è San Giuseppe. È bello, sì, è giusto, è un grande santo, ma perché deve rappresentarci un padre per procura? Un padre che in realtà non è stato concretamente padre. Abbiamo anche un padre che non è stato padre fino in fondo a festeggiarci. Poi oggi è la festa del Papa, quindi la festa del Papa è in un secondo piano, nessuno ci pensa più. A Roma frotte vanno a vedere la grande e giustamente solenne investitura del Papa. E cosa resta di papà? Ma di papà resta una figura carezzevole, tenera, dolce, carina, che porta il bambino spingendo la carrozzina quando la mamma precede il gruppo con le borse piene di acquisti. Papà è quello che tiene sulle ginocchia, quello che giochicchia, è quello che insegna i segreti della PlayStation, è quello che ci compra i primi tablet, i primi smartphone, è quello che ci dà la paghetta, è quello che ci dice sì che possiamo uscire la sera. E quello con cui poi entriamo in conflitto, mi immedesimo, i miei giovani figli, è quello che poi finalmente ci lasciamo dietro le spalle, è quello che, di cui ci ricordiamo soltanto se ci serve un sostentamento, un aiuto concreto, ma in realtà dal quale ci distacchiamo. Ma è giusto, è normale che un figlio si distacchi dal padre, però avviene qualcosa che è contro ogni regola generale. Noi dovremmo prenderci i figli proprio quando crescono. È proprio il momento dell'adolescenza in cui dovremmo prendere in carico i nostri figli. Dovremmo essere padri, dovremmo avere qualcosa da insegnare loro. Potremmo lasciarli tranquillamente alle madri invece che perdere tempo a cambiare pannolini, a spingere carrozzine, a ricevere cravattine di cartone, a fare la festa del papà. Poi a un certo punto, quando crescono, quando cominciano a mettere su i primi peli, quando cambia la voce, ci riprendiamo in carico noi, perché cominciano a diventare uomini. Noi dovremmo insegnare ai nostri figli ad essere uomini. Ma cosa abbiamo da insegnare noi? Qual è la nostra maniera di essere uomini oggi? Cosa potremmo mai dire a un figlio, a parte le basilari nozioni che già apprende a scuola? Sanno già tutto sulla vita, già sanno tutto sul mondo, sanno tutto sulle regole, sull'educazione. Cosa abbiamo noi da insegnare? Beh, oggi mi è presa così, chiedo scusa, ma oggi vorrei chiedere al pubblico che mi ascolta cosa significhi essere padre. Cos'è per voi vostro padre? Cos'è stato vostro padre, al di là dei ricordi teneri, dolci, carezzevoli della fanciullezza, al di là dei conflitti necessari per la maturazione dell'adolescenza? Poi cos'è restato del padre? Quello che ci aiuta a pagare il mutuo? Quello che, quando è un umarello e un pensionato, ci tiene i figli e si comporta da bravo nonno? Quello che aiuta con le sue risorse, con le sue rimesse da pensionato, il nostro traballante bilancio familiare? Ma cos'è il padre? Qual è la funzione del padre? Servono ancora padri? Può essere anche che non serviamo più, può essere anche che i padri non hanno più ragione d'essere. Io ho una condizione di padre molto particolare, lo sapete, perché ormai è diventata pubblica notizia il mio coming out di padre di un ragazzo disabile, più che nota. Beh, devo dire che io da questo punto di vista oggi sono veramente contento. Io sono padre tutto l'anno, sono sempre padre, ho un figlio che crescendo ha avuto bisogno di me e avrà sempre bisogno di me. Quando questi bambini carini che raccontano le poesiole, che danno le cravattine di cartone, che regalano i cioccolatini, che sono felici del loro papà, cresceranno, verrà un momento in cui non vedranno l'ora che il loro papà si vada a infilare in un ospizio, lo prenderanno con una carriola come se fosse spazzatura, lo butteranno in un luogo di raccolta differenziata per anziani. E mio figlio non potrà farlo, avrà sempre bisogno di me, quindi io sarò ancora padre, sarò padre per tutta la vita. 800240024. Sapete dove l'ho trovata? A Marina del Corvo, sulla spiaggia, in compagnia di un mascolo era, assieme ad altri due. No, c'è due mascoli? No, un mascolo e una femmina, bottana come lei. Va bene, va. Bene, bene, fascista, se lo meritava. Hai ragione a prendermi in giro. Quando i padri vogliono occuparsi dei loro figli, una tantum, e tutto assieme, sono patetici. E si vorrebbero subito sapere tutto quello che non sanno da anni. Recuperare in fretta. Come certi studenti che durante l'anno non fanno niente e poi una settimana dagli esami. 800240024, siamo pieni di rappresentazioni di padri nella fiction, nel cinema, nella storia della letteratura, sì, tutte corrispondenti a tanti modelli, ma esiste un modello contemporaneo, realistico, che rappresenti cosa sia il padre? No, il papà, quello della festa, papà, il padre. Il padre che ha una funzione, che ha una ragione d'esistere, che ha un suo ruolo. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Guardi, Nicoletti, io non avrò la possibilità di portare mio padre all'ospizio perché ho perso mio padre quando avevo 21 anni. Mio padre sicuramente ha contribuito tantissimo alla persona che sono oggi e cerco di fare la stessa cosa con mio figlio. Io ho 42 anni, quindi dalla metà della mia vita l'ho passata con mio padre, l'altra metà senza. Mio padre è stata una persona severa, una persona non tanto incline al vezzeggio, al... come dire, un padre all'antica, si direbbe oggi. Un padre all'antica, esattamente. Ma esiste un padre alla moderna, mi domando? Credo di essere io, nel senso che ho fatto tesoro dell'esperienza di cosa era mio padre per me, pur conservando appunto questa grande figura che era mio padre per me, cerco di essere per mio figlio non un padre all'antica, ma un padre presente, severo quando serve, ma anche fonte di coccole, fonte di, come dire, un angolo a cui il bambino può rivolgersi quando la mamma non c'è. Io sono anche e quindi è un sostituto della mamma? In un certo senso sì, perché è un padre un sostituto della madre? Secondo me no, poi ognuno la vede come vuole, è grande libertà. No, non intendevo questo, Nicoletti, intendevo dire che ovviamente ognuno ha la propria figura, il padre fa il padre, la madre fa la madre, ma nella vita che facciamo oggi molto complessa, mia mamma era una casalinga, mia moglie non è una casalinga, quindi ovviamente il bambino ha la necessità e noi abbiamo la necessità di avere dei tempi diversi rispetto a prima, è la vita che ce l'impone. Di conseguenza i nuovi papà non fanno altro che essere anche parte, in parte, nuove mamme. Vedi Antonio, io non voglio assolutamente dare l'impressione di rimpiangere modelli passati, di dire dobbiamo tornare alla definizione dei ruoli. No, voglio capire oggi cos'è. La mia è una allegra e curiosa domanda, non nasconde una polpetta avvelenata per dire no, dobbiamo tornare alla definizione dei ruoli. No, mi sta bene tutto, però vorrei capire oggi cosa significa essere padre. Può essere che ho ragione io che all'inizio, suonando una marcia funebre, dico il padre non esiste più. Il padre è una mera circostanza biologica nel momento della fecondazione dell'ovulo della madre, poi fine, poi può essere qualunque altra cosa. Può essere anche questo, o il contrario di questo, siete voi che dovete dirmelo. Paolo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare la mia opinione. Secondo me essere padre oggi è una grandissima gioia. Gioia. Perché comunque sia, sì, gioia, perché comunque sia, vedi che in famiglia ci sono ancora i figli che quando c'è bisogno di qualcosa, prima di andare dalla madre, vanno dal padre. E questo quando accade, nelle volte che accade, non sempre accade, dà una soddisfazione che, meno male, esiste, esatto, una sorta, esatto, di memoria biologica, di andare a tentoni cercando una figura paterna di riferimento. Esatto. Sì, ma una volta che la cercano... Il problema che io vedo al giorno d'oggi, comunque sia, vedo che i padri, oltre a ricevere gioia, hanno anche molte umiliazioni dei figli, perché comunque sia, fortunatamente questo non riguarda me, che la nostra famiglia non è ancora stata colpita da questa crisi che comunque sia in questi ultimi anni ha anche distrutto famiglia. Vedo comunque degli amici... Ma posso dire una cosa? Scusi Paolo se la interrompo. Per paradosso, non voglio essere consolatorio, i momenti di crisi sono momenti in cui riemerge prepotente e definita la figura del padre. Nel momento della crisi, del bisogno, la famiglia si raccoglie attorno alla persona che in realtà ha una responsabilità. E appunto per questo, perché vedo comunque degli amici che sono veramente in serie difficoltà economiche e familiari, che comunque sia si sentono a volte mandati a quel paese dei figli, anche piccoli, perché comunque sia la scuola, sia nel mondo della scuola, e non possono permettere di pagare certe gite, sia nel mondo con gli amici, non possono permettergli di comprargli certe cose, non possono permettergli più di fargli fare certi sport. Quindi il padre, solo portarli... Anche solo portarli a fare dello sport per la famiglia ha un certo costo. La scusi Paolo. Lei sta definendo il padre in ragione del suo potere di acquisto. Tanto più si è padre quanto si ha un potere di acquisto per poter garantire degli status alla propria famiglia. Non è più il padre colui che riesce a mantenere la famiglia in un circolo di sicurezza, a procurare il cibo, ma il potere d'acquisto. Sono padre se riesco a mantenere un potere d'acquisto sufficientemente dignitoso alla famiglia. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente nazionale Associazione Avvocati Matrimonialisti, autore del libro Perplessi Sposi, che ormai è un classico, indagini sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizioni Aliberti. Cadi proprio a puntino perché l'ultimo ascoltatore, noi stiamo definendo questa mattina semmai esista ancora una reliquia di ciò che veniva considerato il padre, ecco, dice il padre è in ragione di quanto riesce a mantenere uno status, un tenore di vita, una capacità di condividere ciò che viene considerato socialmente utile per essere considerati. Ma questo è vero, io premetto che mio padre per me è stato tutto, l'ho perso a 18 anni, ma è sempre con me e per me è stato un po' il gigante buono che ha cambiato completamente il corso della mia vita anche quando non c'è stato. E quindi... Posso dirti una cosa, Gianetto, con grande rispetto, anch'io ho perso mio padre qualche anno fa, però perdere un padre precocemente sì, rimane un grande vuoto e un grande bel ricordo, ma ci si evita anche di avere quel momento abbastanza triste che ho conosciuto della fase di declino del proprio padre, del rincoglionimento paterno, del padre che ti rendi conto diventa tuo figlio, diventa un bambino, che è un momento molto triste che fa parte comunque della naturale avvicendarsi fra padre e figlio. Ma io veramente sì, condivido anche questo, però io mi sono sempre un po' rispecchiato nei padri della famiglia, che non era soltanto mio padre ma era il mio nonno paterno, gli zii, cioè il ruolo maschile nella famiglia per me è importantissimo, cioè sono riuscito a non diventare un mammone all'italiana, i 7 milioni di mammoni che noi abbiamo nel nostro paese, che sono nati nel momento in cui, nel 75 in poi, la figura paterna è stata completamente fatta fuori, scientificamente a tavolino, perché forse se l'ha anche cercata la figura paterna, perché avevamo i padri padroni, c'era più che autorevolezza c'era l'autorità del padre. E tutto questo indubbiamente è stato un prezzo che la paternità ha pagato con la... Allora Gianetto, proprio dal tuo osservatorio professionale, tu hai definito una data in cui è stata fatta, almeno nel nostro ordinamento giuridico, una sorta di omicidio premeditato della figura paterna? Sì, dalla riforma del diritto di famiglia che aveva introdotto dei principi sacrosanti, si è passati all'eccesso e si è passati quindi dal padre padrone al padre del tutto eventuale, inutile, padre che poteva essere tale soltanto in quanto marito, se non era più marito non aveva più senso di esistere, doveva essere semplicemente un erogatore di un assegno di mantenimento. E poi sul piano degli indirizzi educativi era stato assolutamente sottovalutato, nel mio libro io scrivo chiaramente che ci sono state delle perizie addirittura negli anni 70-80 in cui quando il padre avanzava la pretesa di vedere il figlio anche un giorno in più, lo psicologo di turno, all'epoca la psicologia pensava in questo modo, oggi per fortuna la pensa in maniera completamente diversa, diceva che tutto sommato il padre poteva essere un elemento perturbatore dell'equilibrio del bambino, era meglio che vedesse il bambino in determinati momenti il meno possibile, perché a quel punto era meglio una monogenitorialità. Fermati un attimo, Gianetto, un secondo solo, solo un secondo. Hai chiamato in causa la psicanalista che dava la sua, lo psicanalista, il suo supporto professionale, una perizia per cui si definiva che il padre poteva essere una turbativa. Vera Slepoi, buongiorno. Buongiorno. Una psicanalista, qua. Vera Slepoi, autrice di vari libri sull'adolescenza, sui figli, conoscitrice profonda delle controversie all'interno della famiglia. Sei d'accordo, c'è stato un omicidio della figura paterna? Ma diciamo che più che un omicidio forse si è autosoppresso, cioè, da un lato un suicidio, cioè una rinuncia sicuramente della maschilità da un lato, perché la paternità e quindi essere padre vuol dire anche avere le idee chiare sul proprio ruolo, sulla propria maschilità, che serve ed è fondamentale nella costruzione di quella che è la visione del mondo che il bambino deve avere, percepire. Cioè, ho sentito un po' le interviste e gli interventi, ma è abbastanza inquietante che il genitore si preoccupi di essere accettato in quanto distributore di servizi. Un genitore, e anche mi ha reso molto perplessa il genitore che si preoccupa ed è contento di essere amato, quando in realtà il problema non è affettivo, non è una ridistribuzione degli affetti, magari una compensazione anche dalla scarsa capacità di ricevere affetti che c'è in questo momento storico, quindi il bambino diventa in qualche modo un surrogato di tutto quello che tu non hai all'esterno. Quindi ci sono queste forme di rinuncia della paternità, per quello io dico omicidio da parte di una visione culturale che ha reso il padre materno e non più paterno, cioè in qualche modo un padre buono è quello che assiste al parto, cambia il pannolino, spinge la carrozzina come hai detto tu, cioè questi sono aspetti Vera, sociali. Io non so quanti culi di figli avrò pulito la mia vita, tonnellate, quanti pannolini avrò cambiato, ma mi scivolava, devo farlo perché stavo solo in quel momento, certo. Ma mi mette una tristezza vedere oggi le famigliole col papà che spinge le carrozzine. Ma il problema da questo punto di vista è un problema delle donne, un problema femminile, cioè le donne hanno pensato di rendere più responsabile la maschilità in qualche modo facendogli condurre il ruolo materno, cioè dividendo il proprio ruolo e ridistribuendolo, quando in realtà le cose non funzionano così. Il problema è che essere padri o anche partner funzionali alla difficoltà della gestione del ruolo materno non è certamente un aspetto pratico, non è una distribuzione dei servizi. Dei cioè compiti. Si fa se uno lo deve fare, ma non è fondamentale. Ma non è quello, è il senso di responsabilità del ruolo e soprattutto quello che determina la proiezione e quindi anche la costruzione di una visione di quella che è l'affettività, di quello che è il rapporto con l'altro, con quello che è diverso da te, avviene nella coppia, quindi l'esatta distribuzione dei due genitori, come si relazionano tra di loro, perché le più grandi sofferenze di un bambino è il conflitto tra genitori, l'umiliazione che ad esempio uno dei due genitori può ricevere dall'altro, ci sono infiniti dettagli che vanno a determinare l'aspetto, diciamo, dell'equilibrio, la crescita, che dovrebbe essere l'aspetto dominante del ruolo genitoriale materno e paterno, in questo caso per entrambi, è dare gli strumenti al bambino per crescere, per affrontare quella che sarà la vita reale. Se questo non avviene, ci sono degli squilibri e si creano poi tutte quelle problematiche psicologiche che sono, diciamo, infinite, che dovremmo entrare nel merito singolo, caso per caso. Sentiamo Michelangelo, aspetta un attimo. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno, allora, interessantissima trasmissione. Io sono un padre attivito. Che vuol dire acquisito? Come San Giuseppe, putativo? Sì, esatto. Ma non è un padre. La mia moglie ha avuto una figlia, purtroppo è rimasta poi vedova e quindi, diciamo, io sto imparando a essere papà. Per cui tutto questo tempo. Lei, secondo me, Michelangelo, è una brava persona che si occupa molto di un ragazzo e sarà perfetto come di una ragazza. Sarà perfetto, sì, come figura di riferimento questa ragazza. Ma è un po' diverso, sì, da essere padre, secondo me, però questo è un punto di vista. Questo sì, però non mi sento un padre di serie B, quindi no. Glielo posso assicurare. E quindi le posso dire che quello che si è instaurato e che si instaura con mia figlia è un rapporto giorno per giorno, come diceva anche la psichiatra, e a cui la ringrazio infinitamente degli ottimi suggerimenti che mi ha dato. Però non lo vedo come un tedio o una tristezza. Per cui è un amore doppio, bisogna amare due volte. Sì, io non so perché ho un senso di epidermica diffidenza e repulsione quando si lega al padre, alla figura dell'amore per forza. L'amore è già una parola molto limacciosa a definirla, è molto inflazionata. Il padre fa il padre, questa legare il padre sempre all'amore paterno. Io che ultimamente mi sono impegnato nel raccontare una storia di padre, sentirmi continuamente chiamare, hai fatto una bella storia d'amore, non so perché mi vengono i brividi. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi continuiamo, mi sembra interessante. Melog, la realtà condivisa. Papà! Abbi in quel salsero, sono di questi luoghi. Ha voglia infame! Allo, papi! Ma i papi, vero, sta scherzando. C'era papi, esce il tutore notturno qua. Guarda che la stanemma a buttare le chiavi. E state zitto, papi, te li fa conoscere a tutti, c'è il tutore notturno. Io sono Maccionelle, vero, posso rientrare quando voglio. Posso pure rientrare alle 3 di notte, vero. Ho più di 21 anni. Non posso, ho capito? Ci fate caso, è quello mezzo scemo, sapete. Già partivamo lontani nel dare queste paradossali figure di conflitto fra padri e figli, quando appunto Sordi faceva l'americano a Roma, che sembrava un salto generazionale assoluto, il figlio che vedeva il modello americano come antitesi al mondo arcaico del padre. 800240024, abbiamo iniziato questa mattina facendo suonare la marcia funebre, perché secondo noi la festa del papà è il grande funerale della figura del padre. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo centrare la discussione, secondo me, sulla differenza tra autorità e autorevolezza. Mantenere l'autorevolezza è un impegno costante. Io ho due figli, uno di 23 anni e una di 18. Ho perso anch'io mio padre molto giovane, avevo 18 anni, e quindi io sto attraversando adesso un percorso senza un riferimento precedente, senza un insegnamento o un confronto. Non sa che succede dopo quando... Non so che sta succedendo. Succede dopo che i padri e me purtroppo un po' si rincoglioniscono e ci dimentichiamo, ci dimentichiamo dell'età migliore. Questo succede. Vorrei essere un rincoglionito rispettato, nel senso che vedo già nel rapporto con i miei figli che mi cercano nei momenti in cui hanno dei dubbi interpretativi sulla realtà. E questo già, allora, già è qualcosa. Questo già essere un punto di riferimento nella vita di persone in formazione è un impegno molto grande, molto gravoso. Sì, ma quali sono i campi in cui ancora oggi serve un padre? Togliamo quelli specificamente professionali, non so se lei è medico, commercialista, avvocato, le chiedono consigli riguardo alla professione, ma tolto l'aspetto professionale, quali sono i segreti della vita che un padre ancora può trasferire a un figlio? La navigazione della vita adesso, secondo me, è molto più complessa di prima, con l'informazione che permea ogni momento dell'esistenza e con il contatto con realtà che hanno dei riferimenti valoriali completamente diversi. Poi diciamo la vita cambia talmente, è così cambiato il mondo negli ultimi 10 anni che un padre di 10 anni. Si confrontano con ragazzi che magari sono di altre etnie, di altre culture, che appartengono a famiglie con strutture che definire strutture è già un azzardo, perché sono famiglie sfasciate, con riferimenti culturali diversi. Poi magari i padri ancora fanno i padri. È quello che mancano. Io vedo nei racconti che i miei figli mi fanno che in effetti il funerale che ha suonato oggi per la figura del padre purtroppo ha grandi riscontri, perché mi vengono riportati racconti e alle volte mi portano a casa gli amici a cui fare delle sedute psicologiche, diciamo. In comune, quindi lei fa il padre putativo anche dei figli degli altri? Qualche volta mi è capitato. Va bene, a cui dare è una bella responsabilità, mi fa piacere qualcuno se la prenda ancora. Domenico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. La sua domanda, cosa vuol dire essere padre al giorno d'oggi? Non è che io abbia la risposta, faccio una domanda. Nemmeno io, e non so chi la possa avere. Io le posso dire però che purtroppo io ho due figli, 27 e 22 anni. Perché purtroppo? No, purtroppo non ho la risposta, no, purtroppo non ho i figli, non ho la risposta nemmeno io purtroppo. Ho due figli, 27 e 22 anni, e per contrappormi a quello che fu mio padre per me, perché adesso è morto, era il classico padre padrone del sud, arruolato nelle forze armate, quindi militare. Esattamente. e pertanto diciamo che era un attimino manesco, se vogliamo vi menava dirla. Menava spesso senza giusta causa e per ma perché senza stare... così venava, tornava a casa e vi picchiava senza ragione? No, non senza ragione, ma magari per ragioni futili, diciamo, per futili. E per paura di ricadere negli stessi errori e quindi voler riparare a quello che lui mi ha fatto diventare, cioè nel senso una persona un po' insicura. Ma fino a che età l'ha menata suo padre? Diciamo 20 anni. Fino a 20 anni ancora si faceva mettere mani addosso da suo padre? Sì, signore. Anche me facevo mettere, e diciamo che per rispetto della figura materna evitavi di reagire. E la madre osservava mentre... E la madre era messa peggio di me. Cioè ce n'erano anche per lei, vabbè, menava tutti, aveva un sì, problema sì, evidentemente. Esattamente. Ma beveva, qual era il problema? Perché di solito uno ha sempre delle concause quando mena in maniera così indiscriminata, non è lo scappellottolo a sculacciare. Io credo che, diciamo, perché ho visto, ho avuto esperienza anche di colleghi di mio padre che più o meno erano sulla sfalciariga, io credo che sia, anzi fosse, un problema forse di frustrazione, nel senso che essere sottoposti a dei superiori, come può essere l'operaio della fabbrica rispetto al mettiamola padrone, tra virgolette. Diciamo non riusciva a compensare il fatto di essere l'anello di una gerarchia, tornava a casa e faceva lui il generale. Esattamente. Vabbè, è un aspetto patologico, però. Adesso lei che padre è adesso? Appunto, e cercando di evitare esattamente di fare le stesse cose, perché sa, quando, allora voglio dire, tu impari da chi ti insegna. Se questo è stato un insegnamento, io dovrei essere più o meno la stessa cosa. Per evitare questo, sono esattamente il contrario. Infatti ho premesso la sua segretaria. Sì. Magari, non ho segretaria. Da padre padrone a padre buffone. Ah, lei fa il buffone in famiglia. Cioè, non è che faccio il buffone, ma praticamente non avendo paura di ricadere negli stessi errori, sto facendo la cosa, anzi ho fatto ormai, perché i giochi sono fatti, ho fatto la cosa inversa. Cioè, si fa menare dai figli? No, non faccio menare dai figli, so. Però ho evitato in molte situazioni di rimproverarli di magari lo scapaccione, che per carità qualche volta ci può stare, anche se sono fondamentalmente... Ma lei non trova una forma mediata rispetto a un modello di padre di cui individua gli aspetti patologici? Uno torna a casa e mena semplicemente perché è frustrato, non c'è nessun tipo di giustificazione. Una volta capito questo, però, non è che uno deve fare poi, secondo me, poi lei fa quello che vuole. Lo so, però, se il suo equilibrio è questo, siamo nel mondo delle tante ipotesi, non esistono modelli certi. Lei facendo il padre buffone, probabilmente lei si sente padre realizzato in questo? No. E cosa le manca? No, assolutamente. Mi manca il fatto di avere un rapporto vero, un rapporto con la R maiuscola, anche perché purtroppo mi sono trattenuto il voler insegnare a tutti i costi una certa un certo comportamento. Mi ha portato a... Vabbè, adesso è lo zibello dei suoi figli, se ne rende conto, ma a me la frittata è fatta. Claudio Risè, buongiorno. Buongiorno. Claudio Risè, psicoanalista, psicoterapeuta, giornalista, saggista, però sempre molto attento alla figura paterna, all'evoluzione della figura paterna, probabilmente rispetto alla dissolutezza a cui do segno questa mattina, con un modello forse un po' più preciso, con un po' di rimpianto per una figura di padre quando era il padre. Però senti a che punto siamo arrivati: un padre che si rende conto di essere il clown dei propri figli, ma non ha nulla a che farci, ormai dice così. Certo, questo, assenza, latitanza, confusione del padre è il problema, il grande problema dei nostri tempi. Io me ne sono occupato proprio perché continuavo a ritrovarlo nella psiche, nell'anima dei pazienti e nei loro disturbi, anche quello dell'assenza appunto di un padre che facesse il padre. Allora cosa deve fare il padre? Ma in fondo deve fare delle cose abbastanza semplici. Lui deve dare delle indicazioni ai figli, partendo dal fatto che c'era prima di loro, e quindi per esempio ha accumulato delle esperienze che anche in un mondo estremamente mutevole sono interessanti. Ma non è che cambia troppo velocemente in questo momento il mondo? C'è proprio una qualità del tempo mutevole per cui il padre non fa in tempo a immagazzinare un patrimonio spendibile di autorevolezza, di esperienza. Certo, però c'è un fatto di resistenza che è interessante anche per i figli. Il padre era già lì. Ha resistito fino adesso, se non è stato schiantato da questo velocissimo turbinare di modelli, finisce con l'essere un riferimento. Naturalmente se accetta questa posizione qui, che è una posizione impegnativa, non è né il buffon, né il picchiatore, né la nanna, è una cosa specifica. Però scusa Claudio, noi avevamo dei padri che hanno fatto la guerra, avevano questa grande, noi abbiamo fatto la guerra e noi eravamo annichiliti da questa idea del padre o combattente o sfollato o prigioniero o comunque aveva sofferto in qualche maniera, quindi avevamo un modello di padre che ancora era arcaicamente legato a millenni prima. Ma negli ultimi 50-60 anni cosa hanno mai fatto i padri di patrimonio di vita da poter trasferire ai figli di diverso da quello che fanno ogni giorno anche i figli? Per esempio i padri di una certa età, i padri degli anni 50 che hanno vissuto, erano già operativi, quindi oggi sono un po' dei nonni, hanno fatto il miracolo economico italiano che non è poco. Questi anche padri successivi, padri sessantottini, hanno vissuto una rivoluzione fallita che è un'esperienza importante se uno la interpreta e la presenta per quello che è. Scusami stata... Claudio, questo concetto mi sta molto a cuore. Do un minuto solo le informazioni del traffico, poi lo riprendo fra un istante con te. Melog, la realtà condivisa. .800240024 parliamo il giorno in cui parte dell'umanità festeggia la festa del papà, carezzevole festicciola fatta di cioccolatini e cotillon. Noi celebriamo il funerale del padre. Stavo parlando con Claudio Risè e l'avevo interrotto su un punto che mi stava molto a cuore, sulla epica paterna, che è il necessario carisma per cui un padre può dire sono un padre. Claudio, tu avevi citato i padri che hanno fatto il 68, sono quei padri che pateticamente oggi mandano i figli a fare le manifestazioni perché l'hanno fatto loro, i figli come... però ce n'è anche altri di quei padri lì che parlano autenticamente di quello che loro hanno vissuto, forse dell'amarezza di come è finita, forse di limiti che hanno capito in quel modo di esprimersi. Cioè il padre deve essere autentico, insomma, non deve essere un eroe. Lui è interessante perché li ha messi al mondo, è ancora lì, ha visto delle situazioni molto diverse, ne deve testimoniare con autenticità, anche con affetto naturalmente, perché non è che sta facendo una conversazione accademica o al bar, sono i suoi figli, però senza lasciarsi prendere da un eroismo didattico, no, il padre spera che se la cavi nel modo migliore e gli dica quello che è in grado di dire. Sentiamo Alfredo. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Padre dagli anni Ottanta. Padre dagli anni Ottanta. Padre che si è trovato a dare un modello di educazione dei propri figli, vedendo tanti amici che iniziavano a pensare di essere amici dei propri figli e non padri. A me questa cosa non è mai piaciuta, però non avevo davanti dei modelli di educazione, perché in fondo noi abbiamo avuto un'educazione basata su dei principi fondamentali molto validi, però applicati forse con troppa autorità. Io ho tenuto i principi che mi sono stati dati e ho cercato di sostituire l'autorità che aveva mio padre con l'autorevolezza. Però l'autorevolezza costa come applicazione, perché te la devi meritare, non è come l'autorità che la devi imporre, quindi te la devi guadagnare giorno per giorno dai tuoi figli. Il risultato è stato molto molto valido e tra l'altro per ottenerla abbiamo dovuto applicarla attraverso un colloquio costante, continuo, con i propri figli. Noi credo che siamo tra le poche famiglie in Italia che hanno bandito la televisione dalla sala da pranzo. Beh, una grossa cazzata, mi scusi. Toglie ai figli un elemento di lettura della contemporaneità fondamentale. Non è, è come dire non vi toccate o non frequentate le cattive compagnie. La televisione contaminerà i suoi figli, li contamina anche se non la guardano. Come escono di casa tra altri ragazzi. No, ma l'autorevolezza non vuol dire l'autorità. Cioè, noi abbiamo sempre discusso molto. Sì, ma se gli toglie la televisione, gli toglie uno degli elementi, per quanto detestabile. No, abbiamo tolto la televisione in sala da pranzo. Scusi. Pensavo in tutta... sempre guardata nella massima libertà. Ah, ecco, no, avevo capito. Chiedo scusa. No, allora. Non si può togliere la televisione. Mentre si mangia. No, quello è giusto, certo. L'abbiamo tolta dal momento della riunione della famiglia, soprattutto a cena. Ah, quindi ha trovato dei momenti, diciamo, liturgici, anche se la parola me la si passi, in cui la famiglia sta insieme, se non ci sono mai, è vero, non ci si incontra mai a tavola, non ci si incontra mai. Io mi ricordo la frase tipica dei nostri genitori, la casa non è un albergo, a una certa ora si era tutti a tavola, guai, cadesse il mondo, a quell'ora bisognava essere tutti a tavola, perché si mangiava. E mangiare non era soltanto un momento in cui ci si nutriva, era il momento in cui la famiglia si incontrava. Velocemente, se Serena, finalmente una donna. Buongiorno. Sì. Volevo dire che mio padre per me è stato colui che nei momenti difficili di crisi mi ha sempre segnato che una porta aperta per una soluzione c'era, di non perdersi l'animo, ed era uno che risolveva e mi ha insegnato a risolvere. Mi ha insegnato un sacco di sport, mi ha insegnato coraggio, mi ha insegnato a non aver paura, e queste cose mi servono moltissimo ancora adesso che lui non c'è più. Le stesse cose le devo insegnare a mia figlia, che ha un padre che non è la stessa cosa, non ha queste caratteristiche. Non risolve, il suo marito non risolve? No, non in questo modo. Infatti lei, quando era più piccola, pensava che la mamma potesse aggiustare tutto quello che si rompe. Serena, la sua telefonata è un punto fondamentale. Il padre è colui che risolve. Se un padre non risolve, non è un padre. Silvana De Mari, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, sono entusiasticamente d'accordo. L'assassinio del padre è cominciato 50 anni fa ed è manifestato anche nella letteratura per ragazzi. Quindi ho fatto bene a iniziare con la marcia funebre. Assolutamente. Per cui i padri sono scomparsi per essere presenti solamente per essere ridicolizzati, salvo ricomparire nel fantasy. Per quanto riguarda il padre, chi accidenti è costui? Il padre è uno dotato di pene e testosterone, il che vuol dire che non hai neuroni specchio. Che non è mai detto, nei padri moderni non è mai detto che siano entrambe queste due cose, nella misura e nella quantità giusta. Sì, ci devono essere. Adesso dico una roba per cui esco dalla società civile ancora di più che se avessi detto che sei fuori del Ku Klux Klan, e cioè che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre, perché i loro cervelli sono completamente diversi. E il padre, tra l'altro, non è dotato biologicamente di mammelle funzionanti, il che vuol dire che non è in grado di assumersi la capacità di badare a un bambino piccolo, a meno che qualcuno non abbia già inventato il biberon e il latte in polvere, ma altrimenti non può farlo. Perché il compito del bambino piccolo sono io, che l'ho messo al mondo, devo allattarlo, ma mio marito poi deve intervenire. Primo, perché io sono l'empatia e lui l'etica. Secondo, altrimenti non rompe il legame simbiotico che io ho la tendenza a formare, e me lo tengo a dormire nel mio letto fino a 12 anni e me lo tengo in casa fino a 45. Ma il punto fondamentale è che spetta agli uomini insegnare ai figli la lealtà, il coraggio e la cavalleria, ed è compito del padre avere non solo l'autorevolezza, mi spiace, ma avere anche la squallidissima e schifosa autorità, perché a un certo punto il figlio, ribellandosi contro questa autorità, diventa adulto. È compito del padre trattare malissimo il figlio nel momento in cui lo pesca a fumare. Il figlio sarà trasgressivo e quindi fumerà lo spinello. Quindi io devo creare, Silvana, devo creare a mio figlio le occasioni di uccidermi, così almeno lui crescerà. Esatto, perché altrimenti non riesce mai a diventare adulto. Nel momento in cui noi ai nostri figli non diamo divieti, perché siamo terrorizzati, mio Dio, poi non mi vuole più bene. Perché temiamo anche noi il confronto con il figlio, viviamo esatto. Con... non ce li mangiamo più i figli, ma evitiamo di entrarci in conflitto. Esatto, i nostri figli dovranno violare le stesse regole della vita. Se lo stesso padre gli offre lo spinello, questo povero Cristo, per essere trasgressivo, dovrà andarsi a ammazzare di overdose un rave party. Compito del padre, e insisto, la lealtà, il coraggio e la cavalleria. E ne approfitto per ricordare un attimo, chiedo scusa, il mio adorato padre, anche lui morto troppo presto perché potessi vederlo degenerare nella demenza, e purtroppo abbastanza presto perché potessi rimpiangerlo. Mio padre era un uomo violento. Io ho sempre saputo, non ricordo se mi sia stato verbalizzato, lo sapevo e basta. Ma ti menava? A me no, ma se qualcuno avesse fatto del male a me e mia sorella, mio padre l'avrebbe fatto a pezzi. I carabinieri sarebbero stato l'ultimo dei suoi problemi. E dentro l'assoluta arroganza con cui mia sorella ed io, dentro il coraggio con cui affrontiamo il mondo, non abbiamo paura di niente. Mai. C'è il valore che lui dava a noi. Se qualcuno ci avesse fatto del male, lui l'avrebbe ucciso. Ah, no, non è vero, un paio di ceffoni me li sono presi. Adesso che ci penso, me li meritavo e sono sopravvissuta. Quindi mi sembra che la conclusione che ci lascia Silvana De Mari è questo: il padre è una persona che non ha paura, non dovrebbe avere mai paura, o perlomeno le sue paure devono essere umanamente e chiaramente espresse ai figli, perché fanno parte delle paure a cui un uomo non può assolutamente rinunciare. Oggi abbiamo iniziato con un funerale e finiamo probabilmente con un po' di speranza. A domani.